MX24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Il governo Letta non è un telefonino. Il governo Letta non è che ha una durata prestabilita. No. Funziona se fa le cose. Certo. Se il governo Letta finalmente dà attenzione alla crescita e non solo all'austerity, è un governo che è bene che duri. Era Matteo Renzi a maggio di 2 anni fa. Ecco, onorevole Letta, allora il suo governo è caduto perché avete scelto l'austerity? No, è caduto perché è cambiata fase politica. Senta, ma qual è la cosa più importante per lo sviluppo che ha fatto nei suoi 9 mesi? Fu il decreto del fare, sicuramente. Ma gli 80 euro di Renzi sono stati una misura per lo sviluppo oppure no? Beh, lo vedremo dai risultati. Per adesso credo che sia prematuro dirlo. E il Job Act? È stato un passo avanti. Insomma, però non sufficiente, cioè bisogna sul lavoro di fare molte altre cose, perché oggi il vero problema è la disoccupazione, cioè le tutele, e c'è bisogno di tutelare i lavoratori, cioè che le hanno tutele perso crescenti lavoro. Non ci sono ancora sufficienti, bisogna aggiungere tutele. Senta, ma le misure che il governo sta prendendo agganciano o no la ripresa, secondo la te? Ripresa per adesso è dovuta sostanzialmente a Draghi e al prezzo del petrolio. Quindi non è l'azione del governo. No, l'azione del governo è fondamentale adesso, perché queste condizioni esterne ci consentono di avere la ripresa. Quindi io sono ottimista per le condizioni esterne, sono ottimista perché credo che un governo che ha voglia di far agganciare la ripresa oggi può farlo. Senta, il suo governo però sulle tasse un bel pasticcio l'ha fatto. Senta qui. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. Ripetete, si può ripetere? È l'errore più grave che avete fatto, questa confusione. Ma sai, il problema non è la confusione, il problema è la contraddizione che stava alla base della nascita del governo, del programma, in cui c'era l'IMU da una parte, fatto precedentemente, certo, e uno dei contraenti del governo, insomma, Berlusconi, che voleva togliere. Era oggettivamente una situazione molto particolare, se no onestamente mica sarebbe nato un governo così. Immagino. Ma che differenza c'era tra le larghe intese sue e il patto del Nazareno di Renzi? C'è una differenza? Beh, il patto del Nazareno fu fatto, così è stato spiegato, perché le riforme istituzionali vanno fatte insieme, non in maggioranza semplice, ma insieme. E io questo argomento lo considero valido, positivo. Infatti vorrei che lo si applicasse anche adesso. Cioè vuole che continui il patto del Nazareno? No, voglio che si facciano riforme costituzionali, non da soli. Senta, ma un elemento di continuità in realtà però comunque c'è, ed è un altro, è Angelino Alfano. Si è sentito tradito da lui, lei? No. No? No. E dal PD, che in una votazione drammatica ha scelto Renzi al suo posto? Guardi, io sono abituato alla politica, alle durezze della politica. Fa parte delle regole del gioco. Non fu facile per me, ma ne presi atto. Senta, nel suo libro Andare insieme e andare lontano, lei dice che l'errore di Monti, l'errore principale, è stato quello di lasciar credere che il rigore in Italia lo voleva la Germania. No, era non indispensabile perché lo voleva la Germania. Io l'ho letto così. No. Non dico questo. Dico che il vero problema del nostro paese è il fatto che stiamo in un'Europa che oggi rischia di essere vista come dominata dalla Germania. Ecco, però anche Prodi dice oggi che questa è un'Europa che fa solo gli interessi tedeschi. Si sbaglia? No, questa è un'Europa in cui sta dominando la Germania e bisogna riportare le cose in equilibrio. Però è un'Europa in cui, se si riesce a cogliere quello che Draghi sta facendo, guardi, Draghi sta facendo quelle cose con la Germania, con la Banca Centrale Tedesca contro, però le sta facendo. Quindi è la dimostrazione che in Europa cose per lo sviluppo, anche se i tedeschi sono contro, si possono fare. Senta, lei racconta di aver misurato con i giovanissimi che incontra nelle scuole come però questo risentimento antitedesco e quindi anti-europeo sia molto penetrato. Fa un po' paura, no? No, a me ha colpito molto, l'ho raccontato l'altro giorno a Berlino, di fronte a un pubblico tedesco, e gli ho detto ai tedeschi che erano lì: guardate che il problema non è Syriza, Tsipras, i danni di guerra, il problema è che state dando un'idea al resto d'Europa che voi dominate, e questo è negativo, per cui è un problema di tutti, non è soltanto un problema vostro. Ecco, la presento meglio. 48 anni, pisano, sposato con 3 figli, allievo di Nino Andreatta, ministro giovanissimo, 32 anni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Prodi, poi presidente del Consiglio. Adesso, dopo più di un anno di silenzio, parla di quello che farà dopo le dimissioni dal Parlamento che ha annunciato domenica, che saranno operative da settembre. A che tempo che fa, tra le altre cose, lei ha detto questo? Dal primo settembre mi dimetterò dal Parlamento, da questo Parlamento. Io vivrò del mio lavoro. Senta, ma è così rivoluzionario decidere di vivere del proprio lavoro? Ma no, ho fatto quello che tutti gli italiani che ci stanno ascoltando fanno. Appunto, dico no, perché sembrava un annuncio, insomma, diciamo, no, dimissione operativa a settembre, ma annunciate adesso, perché? Beh, perché a settembre comincia questo mio nuovo lavoro. Ma perché l'ha annunciata adesso? Ma perché bisognava annunciare questo a Parigi, volevano annunciare questo, questa sostituzione con l'attuale, e quindi ho pensato per precedere quell'annuncio. Ma per dimettersi dal Parlamento basta dirlo o ci vuole un voto di accettazione? Ci vuole un voto di accettazione, ma penso che il voto di accettazione sarà... E se non l'accettano, no, invece? Lo accetteranno. È sicuro? Penso proprio di ma sì. Se sarà in Parlamento voterà l'Italicum oppure no? Bisogna vedere come sarà l'Italicum. Beh, ma questo Italicum, mi pare che sia questo l'Italicum. Lo vedremo. Non, lei pensa che non sarà questo, si cambierà? Bah, insomma, io penso che una legge elettorale approvata a maggioranza stretta, in Italia ce n'è stata una sola. È stato il Porcellum, è stato un disastro. Le altre, Mattarellum e quella della Prima Repubblica, sono state approvate a maggioranza larga, perché, come ha detto Renzi stesso, le regole del gioco si fanno tutti insieme. Sì, quindi se fosse approvata così sarebbe un disastro anche questa? C'è bisogno di una maggioranza larga. Senta, l'ex presidente Napolitano però dice che sull'Italico non si può tornare indietro. Allora non è d'accordo? Vedremo insomma, come si comporteranno gli altri. Diciamo. Vedremo come si comporteranno tutti gli altri. Vabbè, ma con Napolitano... Su tante cose sono d'accordo. Meno questa, va bene. Ok, su questa no. Senta, onorevole Letta, senta che cosa diceva un grande politico della Democrazia Cristiana come Fanfani a proposito del rapporto tra lavoro e politica. Senta, ma in politica è indispensabile, secondo lei, avere un secondo lavoro per essere liberi? Cioè avere un primo lavoro, anzi. Io ritengo, la mia esperienza dice, che arrivare in politica dopo avere una propria posizione professionale è un grande vantaggio, è una garanzia di libertà. Ecco, ma chi non ce l'ha allora è meglio che non faccia politica. Io consiglio a tutti, specie ai giovani che ogni tanto vengono, dice sai, io vorrei fare politica, prima studio o prima impara un lavoro e conservati, creati e conservati una tua personalità e possibilità di vivere, in modo da non aver bisogno delle briciole della politica. Insomma, un esempio da seguire. Beh, io adesso metto su questa piccola artigianale scuola di politiche per i ragazzi tra i 19 e i 25 anni, politiche economiche, sì, internazionali, sociali. La prima cosa che dirò a ognuno di loro, guardate, è essenziale che ognuno abbia un mestiere. Ma poi la politica è un impegno, una passione civile accanto al mestiere che si ha. Ma l'ha capito dopo 25 anni questo? No, non è che l'ho capito, è che io mi sono trovato nelle esperienze della vita lanciato a dover fare alcune cose mentre ne stavo facendo altre, mentre cominciavo un percorso universitario e poi sono andate così le cose. Senta, onorevole Letta, tutti hanno visto in televisione con quanto fastidio c'è stato il passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra lei e Renzi, era palpabile. Smaltita la rabbia? Ma guardi, non era rabbia, era ed è semplicemente, come faccio anche nel libro, un'argomentazione di un punto di vista diverso. Senta, ma quando ha capito che era finita? Non credo ci sia stato un momento preciso. Dentro di sé, dico. Forse ho capito quando ci fu quell'attacco molto duro e violento contro Napolitano. Due o tre giorni prima che io mi dimettessi, quell'attacco molto forte su di lui sulle vicende del 2011, un attacco orchestrato in grande stile. E lì ha pensato che era e ho capito era il suo bersaglio, era lei. Che erano partite le grandi manovre. Enrico, stai sereno, è stato il colpo di grazia? Mi sembra che quello sia precedente, se non ho capito male. Sì. Non lo so. Adesso non mi ricordo tutti i particolari. Va bene. Parliamo del futuro. Parliamo no, del però futuro. Un attimo ancora. Eppure Renzi, di lei, in quel faccia a faccia al Festival TG della televisione di Dogliani, di cui abbiamo avuto un breve saggio prima, diceva cose molto chiare e positive di lei. Enrico Letta è una persona molto seria, molto solida. È una persona che, a dispetto della giovane età, a mio giudizio, ha un'autorevolezza. E io faccio il tifo per lui. Enrico Letta è un amico. Sì. E agli amici si deve, a tutti, ma agli amici in particolar modo si deve la parola lealtà. Ma in politica esiste la parola lealtà? Beh, penso che debba esistere. Esiste. Almeno sicuramente in questa scuola di politica sarà una delle cose di cui parleremo. Ecco, nel suo libro lei dice che Renzi però non mantiene la parola data. Che parola non ha mantenuto? No, nel libro parlo del valore delle parole. C'è un capitolo che si chiama Il valore delle parole e dico che nella politica e nella vita le parole devono avere un valore, ma le parole, il peso delle parole certo, non è che è soltanto il discorso parole. Sulla parola data, non data, insomma, non mi voglio fermare su questo punto. Però, no? No, il valore delle parole, no, perché... E ci sono state delle parole che hanno avuto dei pesi perché, sbagliati. Guardi, chiunque ci sta ascoltando dice, ma insomma, ci avete lessato... Sì, va bene, ok. Adesso, ragionate di cose che hanno a che vedere col futuro. Via. Senta, nel suo libro, a proposito di futuro, lei è chiaro, è chiaro che lei ha una visione importante e una grande passione per l'Europa. Però in Europa non c'è un sogno visibile in questo momento. Perché? Ha perso l'anima? Sì, perché c'è stata la crisi economica più dura di sempre che ha fatto aumentare la disoccupazione e si è fatto credere a tutti che la disoccupazione era colpa dell'Europa. Non è così, la disoccupazione era colpa del fatto che c'era poca Europa, perché gli Stati Uniti la crisi l'hanno superata perché avevano istituzioni centrali che hanno risolto i problemi. Noi ci abbiamo messo anni, alla fine è arrivato finalmente Draghi che ha dimostrato che con istituzioni centrali europee i problemi europei si possono risolvere, ma la crisi ha fatto talmente tanti danni che l'Europa ne ha risentito. Parla talmente di Draghi che lo vedo arrivare, che dice, ho torto? Beh, onestamente sta facendo a livello europeo una grande rivoluzione. Infatti, io credo che come italiani dobbiamo essere anche molto abbastanza grati. Orgogliosi. Certo. Senta, però l'Italia è sola di fronte all'esodo biblico che arriva e che sappiamo arriverà ancora di più della Libia. Triton è fallita, l'Europa è immobile, parla ma è immobile. Che cosa manca? Beh, io spero che domani il Consiglio europeo approvi qualche cosa di importante e io penso che la cosa principale, lo dice oggi in un bellissimo editoriale sul Messaggero Romano Prodi, credo che bisogna che a livello europeo si faccia una specie di Mare Nostrum europea. Io penso cioè che questo sia si aspetta di domani? Spero che accada ma qualcosa di simile. Ma la soluzione militare non ha senso? No, mi sembra molto complicata la soluzione militare sulla Libia, sì. Mi sembra molto complicata. Altra cosa è dire che la Libia va sistemata e la Libia ma sistemata perché è lì il punto infatti del terrorismo e degli spero che il Consiglio di domani e soprattutto la Libia e affari da Nazioni Unite riescano a trovare una soluzione ma operativa non ma una lei soluzione ne ha che ce l'ha lascia. Un'idea operativa semplice ma sarebbe stato non male per esempio se l'Unione Europea avesse nominato uno come Romano Prodi a occuparsi di questo. Senta, aver ucciso Gheddafi senza pensare a una soluzione è stato un errore grave. È stato un errore molto grave, non perché bisogna difendere un dittatore come Gheddafi, ma perché quando si fanno iniziative militari, come bisogna fecero, sapere cosa capita dopo. E il what's next è l'elemento essenziale. Se non c'è quello, dopodiché si fa, la crisi di adesso è figlia di 3 anni di nulla che hanno aperto un caos lì e oggi hanno favorito tutto, terrorismo e Gran Bretagna e Francia nel 2011 si sono presi una grave responsabilità. Cioè, Sarkozy ha avuto una grande responsabilità, sì, più ancora che... Assolutamente sì. E devo dire che su questo l'Italia, in modo bipartisan... Prodi per un verso, Berlusconi per un altro, sono sempre stati contrari a questa cosa. Mi ricordo Frattini, certo, preso una posizione dal ministro degli esteri molto netta. Con... Senta, l'Italia però non ha potuto tenere perché era fragile quel governo forse, no? Eravamo ai titoli di coda purtroppo. Cioè purtroppo, no, io sono contento che il governo, governo però dico, l'Italia era fragile e quando si è fragili si è meno forti in Europa. Questo senta, è l'Italia però è il paese europeo che è il maggior fornitore di personale e di mezzi per le missioni dell'ONU. In cambio di che cosa, onorevole Letta? C'è da chiederselo, perché costano. No, costano, sicuramente costano molto, però in cambio di molto, perché noi per la nostra difesa spendiamo molto meno di quanto dovremmo, perché la nostra difesa è comunque assicurata da un sistema concentrato attorno agli Stati Uniti e paga più il contribuente americano di quanto paghiamo noi, quindi dobbiamo comunque renderci conto. Però nell'Europa siamo quelli che forniamo di più, quel cappello. Nell'Europa i francesi hanno molta più spesa militare e fanno, per esempio, spesa militare. E hanno un sistema di difesa che è molto più costoso del nostro e serve alla fine a tutti. Quindi io penso che questa nostra contribuzione alla fine è ripagata dal fatto che stiamo dentro un sistema che ci assicura una difesa. Senta, che però, se dovessimo pagarcela da noi sarebbe molto più però cara. Però anche sui Marò non siamo riusciti a fare niente. Abbiamo anche il ministro degli esteri europeo, però niente. Senta che cosa hanno detto i vari ministri degli esteri? È una situazione complessa. Io sono convinto e confido che ci sarà un'indagine corretta, strettamente scrupolosa delle norme dello Stato di diritto, di cui questa grande democrazia indiana è esempio. Dobbiamo tutelare i Marò, vedere di riportarli a casa, e io credo che questa strada ci rende possibile sperare in una soluzione fast and fair. Ho incontrato il mio omologo indiano per ribadirgli che siamo determinati a esplorare tutte le azioni e politiche e legali a livello internazionale per vedere riconosciuti i nostri diritti ad esercitare la giurisdizione sul caso dei due Marò. Qualcosa è cambiato nel quadro politico indiano e credo che il canale di comunicazione da questo punto di vista politico si sia rafforzato rispetto a prima. Sì, però non è vero perché non è capitato niente ancora. Però sono quattro ministri degli esteri. Sì, però proprio perché sono quattro ministri degli esteri e quattro importanti, autorevoli personalità, è la dimostrazione del fatto che l'Italia ci ha tentato in tutti i modi con formule diverse. Che non conta niente anche, però. Però il tema di fondo è che questa vicenda si è infilata in una situazione indiana, attenzione, sì, in cui abbiamo capito che cosa vuol dire l'India. Se fossero stati gli americani andavano a riprenderseli, l'abbiamo visto fare. Ma noi non siamo gli americani. No, appunto, ma non purtroppo contiamo neanche questo lo dico niente. Perché è uno dei, per me è uno dei più grandi dispiaceri il fatto che questa vicenda dei Marò non si sia ancora risolta. Senta, l'incontro tra Renzi e Obama, le è sembrato un incontro speciale o di routine? No, mi è sembrato un buon incontro, importante, utile, ho incoraggiato mentalmente che questo incontro ci fosse, andasse bene, perché io sono tra quelli che ritiene, in controtendenza con il clima che c'è stato qualche mese fa, quando tutti dicevano Obama è finito, Obama è, secondo me, ed è un grande presidente, quindi credo che l'intesa con gli Stati Uniti debba essere rafforzata, Renzi lo sta facendo e sta facendo bene. Senta, però neanche Obama è sembrata molto sensibile sul problema della Libia. Anch'io sono rimasto colpito dalle affermazioni. Abbastanza quasi esplicito, diciamo. È evidente però che, fare i vostri, diciamo, è evidente che il discorso che fanno gli Stati Uniti da un po' di tempo a questa parte è c'è bisogno che l'Europa si occupi di più dei propri confini, siccome la Libia ha i nostri confini, in parte ha ragione Obama. Senta, ma in questo mondo così complicato, multipolare, dove tutti i problemi si intersecano, sembra quasi che si accenda un desiderio nuovo di guerra fredda, bipolarismo, sia in Russia che in America. È vero o è solo una sensazione così giornalistica? No, la sensazione è che la Russia abbia virato e ci sia una posizione più profilata, più orgoglio nazionale. Bisogna capire dove questo porta, è molto pericoloso. Ecco, però per l'Europa questo è un problema, perché gli Stati Uniti chiedono inasprimenti di sanzioni, ma l'Europa può permetterselo, no? Beh, stiamo pagando duramente queste sanzioni, però è anche vero soprattutto che noi in Italia non è che si può immaginare che si annettono pezzi di territorio, si cambiano le frontiere, ci sono guerre civili o guerre esterne e si sta a guardare. Però questo il prezzo lo paghiamo noi. Non gli Stati Uniti. Il prezzo lo sta pagando l'Europa, ma perché è l'Europa accanto lì, la frontiera quindi europea. Quindi forse deve gestirlo in un modo più utile all'Europa. Senta, un nuovo protagonista della politica mondiale è certamente il Papa. Obama lo ringrazia per aver favorito il riavvicinamento con Cuba, lo stesso fa Raul Castro. Sembra quasi seguirlo un po' nella riconquista dell'America Latina. C'è un bisogno di avere una presa diversa, una posizione diversa degli Stati Uniti sull'America Latina? È possibile, perché sta cambiando tutto in America Latina, stanno cambiando molte cose, cambierà le cose in Argentina, non si capisce bene il futuro del Brasile quale sarà. Quindi io penso che un Papa latinoamericano rappresenti una grandissima opportunità per una parte del mondo che deve essere più protagonista. Intanto Papa Francesco è sceso in campo con forza per denunciare il genocidio degli armeni. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Anche oggi il messaggio della Chiesa è il messaggio del cammino della franchezza, del cammino del coraggio cristiano. Ecco, lo scontro è stato durissimo, la reazione turca è violentissima. Questo scontro allontana la Turchia dall'Europa o no? No, non credo che sia questo scontro che allontana la Turchia dall'Europa. Io sono uno tra quelli, insieme al ministro degli esteri del mio governo, Emma Bonino, siamo sempre stati favorevoli a un avvicinamento invece della Turchia all'Europa. Però l'Europa mi preoccupa molto questa nuova situazione, ma che è dovuta soprattutto a fatti interni della Turchia, intendiamoci. L'Europa ha sostenuto la posizione del Papa, l'Italia meno, lei? Insomma, mi sembra evidente che il genocidio è assolutamente tutto il diritto il Papa di intervenire su un tema di questo genere, ci mancherebbe. Senta cosa diceva Gheddafi a proposito dell'ingresso della Turchia in Europa. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Forte, eh? Sì, forte, e per la verità che il tema però è un tema molto largo, complesso, la necessità per l'Europa di tenere un rapporto con la Turchia rimane fortissima. Senta, adesso insegnerà politica, l'abbiamo detto, ai giovani a Parigi. Che cosa vorrebbe essere sicuro di riuscire a insegnare? Beh, che l'Europa è il nostro futuro e che senza Europa non andiamo da nessuna parte. Perché la differenza, sa qual è? Noi abbiamo due possibilità nel mondo dei prossimi 10 anni, quindi di quando questi ragazzi saranno protagonisti. O essere nel mondo tra cinesi, americani, indiani, quelli che le regole le applicano, le regole fatte da loro, oppure essere quelli che insieme a loro fanno le regole sull'ambiente, sul diritto del lavoro. Io vorrei essere tra quelli che fanno le regole, ma questo può avvenire soltanto se l'Europa è unita. Se siamo divisi, non conteneremo niente. E quindi questo è il punto centrale della sua mission, diciamo, di direttore. Senta, Romano Prodi dice che 3 presidenti del Consiglio non eletti sono stati in un intervallo troppo lungo nel processo democratico. D'accordo? Beh, penso che bisogna far di tutto perché il sistema democratico abbia legge elettorale e rappresentanza che consentano che le prossime elezioni eleggano un Parlamento. Ma lei si è mai sentito a disagio per questa ragione? Ma sicuramente mi sono sentito a disagio, però intendiamoci, lo sappiamo tutti, il mio governo è nato perché non c'erano alternative, certo, a larghe intese in cui bisognava trovare una persona che riuscisse a tenere insieme, certo, tutti, se no la legislatura non partiva. Alle volte io ho l'impressione che su questo tema bisogna ricordarsi con grande forza le condizioni che hanno fatto nascere il governo che poi ho guidato per quei mesi. Senti, il primo maggio si inaugura l'Expo, ci andrà? No, quel giorno non ci andrò, ma sono... No, perché l'Expo è un po' simbolo di quello che lei scrive nel suo libro, cioè la politica che include, non che divide. Guardi, perché... sì, nel libro ho messo un capitolo in cui, siccome quella notte c'ero, ricordo come nacque l'Expo di Milano, una scelta di Romano Prodi nel Consiglio dei Ministri del 2006 che varò la legge finanziaria per l'anno successivo. Un'idea della Moratti, allora sindaco, certo, appoggiata da Formigoni, presidente della regione, Penati, presidente della provincia, e Prodi fece la scelta. E la scelta la fece, rispetto alle candidature che c'erano, come sull'unica candidatura di una città guidata dal centrodestra. Certo, le altre candidature erano... Perché alla fine, ed è stato fondamentale. Quindi era un esempio di democrazia inclusiva, ma la democrazia governante e la democrazia inclusiva sono alternative oppure no? Guardi, non c'è democrazia governante se la democrazia non è anche inclusiva. Senta, per finire, Renzi racconta un paese che non c'è oppure un paese che non c'è ancora? Che domanda difficile. Allora, voglio dire, è una fase in cui la percezione delle cose vale più del reale? Ecco, io spero che non sia questa fase. Alle volte ho l'impressione che lo sia. E io nel mio libro cerco di dare un contributo perché non sia un tempo in cui la percezione conta più della realtà. Ma aiuta a stare meglio? No, è metadone. Metadone? Senta, un'ultimissima domanda. Ma si voterà in autunno? Oppure penso, prima lei... Penso proprio di no. Pensa di no? Ma questa legislatura andrà alla sua scadenza naturale perché le riforme costituzionali che sono state messe in campo e che sono, hanno una loro importanza per il futuro, hanno dei tempi di approvazione tali che si arriverà alla scadenza naturale. E se si votasse solo l'Italicum e poi andasse a votare non è possibile? Beh, sarebbe una sconfitta di tutti. Grazie. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS e pubblicità. Mix 24. Un guanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo, ma già troppo in ritardo. E stava quasi per raggiungerlo, ma troppo in ritardo. 9.39, 23 secondi. Allora questa canzone, Pietrangelo? Perché oggi in metropolitana in un vagone c'erano 7 passeggeri, precisamente 7 donne, 7 giovani principesse, tali dovevano essere perché erano regali, sazie di luce, ciascuna con un colore. La prima con un mantello nero e con i cerchi di Saturno al polso a modo da di un bracciale, la seconda col giallo rutilante d'oro, la terza vestita di verde, che è il colore della preghiera e della luna, la quarta invece sanguigna, intrisa nel rosso della passione, la quinta devota a Mercurio, stretta nel mantello azzurro, la sesta votata alla sabbia del deserto, colorata di sandalo, mentre la settima, nel bianco di Venere, dalla seduzione volge alla purezza, perché è a lei che il filosofo, indietreggiando per non turbare la sovrana quiete della viaggiatrice, porge il guanto dimenticato in un corrimano. È il guanto che occorre per toccare il punto nero del cuore, il guanto Francesco De Gregori, che rischiava di affondare. Mario. Io. Mario. Stavo guardando le ultime news. Vabbè. Cosa è capitato di nuovo? No, niente. C'è Renzi che adesso alla Camera. Sì. Parlare, vabbè, sì. Poi se vedi, intanto la tua bolla. Vai. Bellissimo. Questo è Psycho dei News. È un album intitolato Drones. Parla di guerra e noi parliamo di Libia. Vabbè, benvenuti a bordo. Ne avete un po' parlato in un'intervista a Enrico Letta, quindi tutti molto più sereni. Vabbè, il colonnello e i suoi figli sono stati ammazzati barbaramente nel 2011, da lì comincia il caos. Ora però leggo che vogliono, non si capisce bene cosa vogliono fare, Giovanni. Allora, cerchiamo di chiarire, vogliono bombardare i barconi, sparare agli scafisti? Abbiamo cosa sentito, vogliono fare? Si aspettano, abbiamo sentito, si aspettano decisioni. Anche Prodi lo diceva appunto sul messaggero. Decisione dalla commissione oggi, domani. Sì, perché insomma, sparare gli scafisti è una cosa, affondare i barconi è un'altra. Poi affondarli come? Dove? È bello vedere che tutti sono commander in chief. Nessuno si fa però domande sul come si fanno le cose. Io spero che ci siano anche dei militari in questa cosa qua. E sottolineo che anche che ISIS non aspetta altro che truppe occidentali vadano a combattere da qualche parte dove sono presenti loro. Basterebbe leggersi i loro proclami per capire che cosa vogliono fare. Comunque, in ogni caso, è la trappola che costruiscono. Sì, sì, in ogni caso, cose che voi sapete, ma io ribadisco, ci sono due sole istituzioni che funzionano in Libia: la banca centrale, che paga ancora gli stipendi ed assicura un flusso di cassa al paese, e l'assemblea costituente, che è l'unica istituzione democratica eletta, 56 persone, che non è contestata né a est né a ovest. C'è una terza istituzione in Libia che ci riguarda da vicino e che fa funzionare le cose, cioè l'energia elettrica, e si chiama ENI. Quella è la nostra vera arma diplomatica, anzi l'unica. Speriamo di saperla usare. Salamino. La rottamazione non si tradisce. Epurazioni e severo controllo di ogni possibile tentativo della reazione in atto. Succede che Matteo Tizianovich Renzi, presidente del Consiglio dei Soviet, ha personalmente sbianchettato alcuni esponenti del partito dal parterre della Festa dell'Unità. Il giornale in sé, come sappiamo, non esiste più. No. E c'è solo la festa, quella coi famosi tortellini. E non potendo cancellare, come faceva Stalin, i nemici della rottamazione dalle fotografie, Matteo Tizianovich Renzi cancella dall'elenco degli ospiti della Festa dell'Unità cancellata Rosy Bindi, avvistata in Sud America sul sentiero di Trotsky. Cancellato Gianni Cuperlo, arruolato ormai coi russi bianchi della divisione zarista Trieste. Cancellato Pierluigi Bersani, in esilio ad Antigua quest'ultimo, nella villa sfitta di Silvio Berlusconi. Cancellato Enrico Letta, noi siamo stati fortunati ad averlo incontrato prima, ma pare che sia in partenza per la dacia di Solzhenitsyn ricostruita appositamente per lui a Parigi. Cancellato Massimo D'Alema e con lui anche i suoi vini, cancellati dagli scaffali di Italy, dove Oscar Vladimir Popov Farinetov, il luogo di quelle bottiglie, ha fatto mettere le treccine di Maria Elena Boschi. E le treccine sono visibili nei treni in corsa, tra i percorsi innevati, perché altro che Pontassieve, lì nella ridente Toscana, altro che Firenze, e la Siberia che si prepara nell'Italia di Matteo Tizianovich Renzi. Bolla, Mario! Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta. Lo devo presentare questo pezzo, certo, no? Mi sa di vabbè. Sì. Fiume San Creek, vabbè, De André, fallo salire un po'. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Ehi, generali! Giovanni, la verità è che sta emergendo una grandissima delusione, un filo conduttore il nostro di stamattina sulle primavere arabe, e perché nel 2011, pensa, e sono usciti oggi i dati di un sondaggio interessantissimo, il 92% dei giovani arabi sperava di vivere nel futuro in una democrazia. L'anno dopo questa percentuale era scesa al 42%, quest'anno è solo il 15%, e di contro, oltre il 38-39% degli intervistati dice che la democrazia nel mondo arabo non funzionerà mai. Molto notizia, istruttivo. Molto istruttivo. Se per questo manco qua funziona. Pubblicità. È vero. Mix 24. Canzoniere. Preferirei essere un rosolaccio in una siepe che una rosa d'allevamento nelle sue buone grazie. E preferisco avere l'odio di tutti che simulare per conquistare la simpatia di questo o quello. Come adulatore non sarò un granché, ma come malfattore sono trasparente. Oh. 800240024 numero verde, 349-238-6666 l'SMS. La bolla. Vai. Il sublime Vivaldi. Nulla in mondo pax. Allora, la pace è la ricerca di tutto. Molto rapidamente, parliamo di Russia, player essenziale. Lavrov, il ministro degli esteri, molto sornione, esperto e paziente, sta aspettando adesso che l'Europa si contorca per bene sul problema della Libia, che essa stessa in fondo ha creato. I russi hanno già detto di essere disposti a fornire supporto logistico di vario tipo e armi, ovviamente, a patto di non ripetere gli errori del 2011. Che si sappia che fare dopo. Esatto, che fare dopo. Cioè, soluzione politica. Esatto. Nel frattempo segnalo che Mosca festeggia un accordo molto importante, perché l'Unione Europea ha dato il via libera all'Ungheria per costruire una centrale nucleare da 12 miliardi di euro. Bravi questi sì, russi, eh? Stavo per dire sovietici, no. Mi veniva una cosa del genere. Niente. Bene, bene. Allora, basta. Salamino. Carlo Conti, che è un celebre intrattenitore della RAI, ha inventato il minutino di raccoglimento. La scena della strage al largo delle coste africane incombe, il bravo presentatore deve pur rimediare tra la cronaca e lo spettacolo, e non potendo appesantire il varietà, alleggerisce la riflessione e fa del minuto un minutino, e l'ha notato oggi Aldo Grasso sul Corriere. E così, ricordiamo, molti speaker hanno fatto dell'attimo un attimino. Strane creature verbali passate in rassegna dunque da Luca Mastrantonio in Pazzesco, dizionario ragionato dell'italiano esagerato. È un libro edito da Marsilio, dove rientra l'attimino, così pure il minutino di raccoglimento, e si va dalla A di addict o addictuk addict actung. Mario, come si dice questa cosa? Addictictac. Addicted. Addi? Dicted. Actung. Actung. Actung addicted dal alla Z di zombie. Siamo due pazzi. Ovviamente, ovviamente Giovanni, c'è la rottamazione. E il pazzesco che dà il titolo è definito così. Più che una parola ormai è un effetto speciale. Un gioco pirotecnico, un razzo segnalatore, un bengala di tre sillabe che segnala stupore, meraviglia, terrore, pazzesco. Insomma... Addicted, addicted, insomma, insomma, facciamo tutti un minutino di raccoglimento per la lingua italiana, grazie a Petrolini che la sa spiegar bene. Sono un uomo grazioso bello, sono un fortunello, sono un uomo ardito e sano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono un dirigibile, sono un che va dal fulmine, sono un parafulmine. Professor Simonelli, lei la lingua italiana la parla benissimo, ma di televisione ci capisce? Cioè, qual è, dov'era questo canone in questo tempo? Sentite dov'è il canone. Inizia il vento e furia la sera, scarpe rotte. Vabbè, abbiamo sentito. Basta, dica. Basta. Tutta roba con tempo. Dica. Dopo anni, sì, finalmente si vede una programmazione, sì, lineare, che porta verso un 25 aprile celebrato come si deve. Cosa è successo? È successo che, avendo rinunciato alla televisione pubblica, ma anche quella privata, come vedremo, a produrre dei programmi di storia, lei, sì, questa cosa dispiace. No, ne ho sentito parlare. Sì. Per celebrare il 25 aprile si è ricorsi al cinema. Al cinema italiano, Iris e Rai Movie è da domenica scorsa che programmano in prima serata film di carattere storico, resistenziale o sulla seconda guerra mondiale. Bene. Questa sera, per esempio, c'è Il miracolo a Sant'Anna di Spike Lee su una rete, sull'altra c'è Il delitto Matteotti, anzi c'era l'altra sera Il delitto Matteotti, questa sera c'è Il federale. Insomma, una programmazione cinematografica che fa pensare ad una linea saggia, sapiente, anche perché... Anche noi, italiano, professore, ce ne occuperemo raccontando Sant'Anna di Stazzema. Il cinema italiano è rinato proprio con il cinema resistenziale, tant'è vero che venerdì sera ci sarà la coppia restaurata, l'edizione restaurata di Roma Città Aperta su Rai 3 in prima serata. Udite, sabato poi ci sarà la prova del fuoco. Insomma, troppo a nulla. Fatto da Fazio, a Maria De Filippi. Professore, come andrà lo vedremo, va e bene, magari ne parleremo. Va bene, professore, sì, siamo in chiusura. Sul piano commerciale si fa in alternativa il carattere di distintività che un presidente della RAI richiedeva per il servizio pubblico. Grazie, bene, professore, grazie, bene. Che cosa ci racconta Marina Milone dopo il giornale radio oggi? La pagina di storia? Il 23 aprile 1946 Enrico Piaggio registrava il brevetto della Vespa e proprio oggi la Piaggio festeggia 500.000 scooter prodotti in Vietnam. Ancora oggi è un'icona del Made in Italy. Raccontiamo la storia della Vespa. Ne parliamo con un vespista, un ragazzo che è a Singapore e che ha deciso di fare il giro del mondo in Vespa. E poi con il professore di storia economica Giulio Sapelli. A tra poco. Bene, bene, la storia della Vespa dopo il giornale radio e prima della pubblicità Amore disperato di Nada. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando,